Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. I lavori di domani di Anna Marino. Si tratta di una figura professionale in grado di elaborare, coordinare e gestire strategie di comunicazione digitale, costituendo un'interfaccia tra azienda, account e sviluppatori di progetto in imprese di comunicazione. Chi è? Il Digital Communication Specialist. Può specializzarsi infatti nella gestione dei social media community manager, del marketing, digital marketing specialist, della pianificazione, digital media planner, della gestione del progetto e del cliente, digital account, della reputazione del cliente online e qui è digital PR. Fate attenzione, perché da oggi non solo vi diamo il ventaglio di possibilità, ma anche siti, app e link utili per informarvi, aggiornarvi, trovare formazione mirata per questa figura, pronta presa e, perché no, cercare anche opportunità di lavoro. Quindi prendete carta e penna o i device, perché grazie ai nostri ospiti avrete le informazioni chiave. E grazie anche a Nicoletta Vitadini, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna comunicazione, marketing digitale e sociologia della comunicazione, che ci spiega la figura e la formazione del Digital Communication Specialist. Noi ci occupiamo soprattutto della comunicazione dal punto di vista digitale e certamente in questo momento il nostro paese sta muovendosi verso la digitalizzazione quasi a tappe forzate per esigenze anche molto concrete di gestire a distanza tanti settori. Quindi accanto ai lavori più tradizionali che riguardano questo settore, come il social media manager, colui che gestisce i contenuti web per un'azienda, o piuttosto che l'analyst che si occupa di analizzare i dati relativi alle performance della comunicazione digitale, o l'esperto di web reputation, si stanno moltiplicando e sviluppando delle altre opportunità professionali che andranno a crescere nel prossimo futuro, e sono tutte quelle legate allo sviluppo di una parte digitale della comunicazione tradizionale. Pensiamo per esempio all'organizzazione e alla comunicazione degli eventi, che sono qualcosa che si svolge all'interno dello spazio fisico, ma che sempre di più hanno ormai anche una declinazione virtuale. Quindi per esempio ci sono bisogno registi degli eventi virtuali che siano in grado di gestire in modo professionale l'alternarsi delle voci all'interno di uno spazio digitale, per anche in corrispondenza alla realizzazione magari di un evento offline. E deve essere praticamente una trasformazione nella trasformazione. Questa pandemia ha generato un'accelerazione e questi registi online, queste nuove professioni sono praticamente nate dai fatti, dalla realtà. Però è necessario anche un livello di formazione, cioè non è soltanto sperimentando e sul campo, ma è necessario anche, come dire, dotarsi di mezzi e strumenti formativi. Dove ci si forma e come avviene la vostra formazione? Non ci si improvvisa e non basta essere bravi a usare il computer o a usare i social per diventare professionisti di questo settore. Questo, diciamo, ormai le aziende l'hanno sperimentato, che prendere un giovane abile a usare i social non è come prendere un professionista che poi si faccia carico della comunicazione dell'azienda attraverso la rete. Quindi bisogna essere molto attenti a non dotarsi soltanto di competenze tecniche sugli strumenti, perché oggi lavoriamo su Facebook, domani forse su TikTok, dopodomani su qualcos'altro ancora. Tre cose: professionisti che insegnano le tecniche, professionisti che insegnano le strategie, ricercatori studiosi che insegnano le piattaforme. Ovviamente poi facendo anche tanto lavoro pratico. Per arrivare fin qui, da dove si parte? È un master universitario quello di cui stiamo parlando, quindi c'è bisogno la laurea. Una laurea triennale, non è necessaria una laurea magistrale, ma si accede dopo un percorso di studi di tipo universitario di almeno 3 anni. Ecco, dal punto di vista proprio pratico, quanto dura il corso, quali tipi di insegnamento e, giustamente dicevamo, come si è trasformato con il Covid? Il corso dura un anno accademico, composto da 6 mesi di lezioni in aula e 6 mesi di stage in azienda, che completano, diciamo, diciamo, il percorso formativo. Quest'anno cominceremo a febbraio 2021, quindi noi contiamo che il Covid ci consenta ormai di tornare in aula e quindi di svolgere un master in presenza. Gli insegnamenti sono suddivisi in tre grandi aree, gli insegnamenti specifici sulle diverse aree di comunicazione digitale, quindi dal digital PR al social media management, alla progettazione di un piano di comunicazione, ma anche alla pianificazione dell'advertising all'interno dei social, al mobile, insomma una serie di corsi che vanno a fondo su specifiche tecniche, dei laboratori di approfondimento per esempio sull'HTML piuttosto che sull'e-commerce, su elementi specifici, e poi alcuni grandi corsi di sintesi che sono progettazione e gestione con il cliente, comunicazione di una strategia e costruzione di una strategia, costruzione di un piano di comunicazione, che vanno a mettere a sistema tutto quello che si è imparato prima. Qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure anche a seconda della seniority? La forchetta di guadagno parte da ovviamente una prima fase di stage retribuito, quindi sulla base di quello che la legge prevede, non un rimborso spese. Finito lo stage si passa molto spesso o a delle assunzioni a tempo indeterminato che ancora esistono all'interno di questo settore, o a delle assunzioni a progetto e collaborazioni, e lì la forchetta di guadagno può partire anche tra i 1.500 e 2.000 euro e poi va a salire secondo la seniority. E allora riassumiamo per chi ha seguito finora: per avere le informazioni, diciamo, subito pronta presa, prendete carta e penna, i vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni, app, siti per formarsi, informarsi a partire dal vostro? Il nostro sito ovviamente è quello dell'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica e il Master in Digital Communication Specialist. La prima indicazione è LinkedIn. Avere un ottimo profilo su LinkedIn, esplorare LinkedIn, perché il mondo del marketing e la comunicazione digitale si muove all'interno di questa piattaforma. Seconda cosa, quasi tutte le agenzie di comunicazione rendono pubblico sul loro sito quando aprono dei posti di lavoro e quando aprono delle posizioni di stage. Quello è un canale attraverso cui vengono raccolti curriculum, viene fatto recruiting. Quindi sono lavori non solo di domani ma anche di dopodomani. Sì. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.